petto pedavo di me, mi prometto di corazzare, ti marapai posto vedudo, travagliate la mia, petto pedavo di me, mi prometto di corazzare, ti marapai posto vedudo, travagliate. Ora così rispondendo, e ti dando una pietà, falla sempre con amore, speranza ed alba. Ora così rispondendo, e ti dando una pietà, falla sempre con amore, sanna speranza ed alba. Todos cantar, es tan rico la flores.